Europa 24. Un buongiorno da Gigi Donnelli. Oggi parliamo, o meglio partiamo, dall'incontro avvenuto stamane a Parigi in occasione del 20° anniversario del Jacques Delors Institute, dunque i grandi, diciamo, costruttori dell'Unione Europea in tempi decisamente diversi, soprattutto per le istituzioni, ma tant'è, protagonista Jean-Claude Juncker, dunque presidente della Commissione. È tornato su vari temi, uno dei più sensibili riguarda ancora il tema Brexit. Dice non negozieremo prima che arrivi la lettera d'addio al governo britannico all'UE, così appunto Jean-Claude Juncker, che dice se si vuole avere accesso al mercato unico tutte le regole devono essere rispettate, quindi accettare anche la libertà di circolazione dei lavoratori. Se ricordate, ne abbiamo parlato ieri, questo è uno dei temi centrali, insomma, di un Regno Unito che, semplificando oltre misure, forse oltre giustizia, vorrebbe ridurre sensibilmente l'ingresso e avere dunque carta bianca negli ingressi anche dei cittadini europei, ma nello stesso tempo usufruire del mercato unico, di questo grande colosso economico e monetario che l'Europa è, nonostante tutto, al di là di tutto. Questo uno degli aspetti. E poi c'è stato anche una battuta invece che riguarda il rapporto tra Unione Europea e Stati Uniti, in particolare sul TTIP, quindi il trattato di libero scambio tra le due sponde dell'Atlantico. Juncker dice non si inginocchierà davanti agli americani, non getterà al vento i principi che hanno fatto il successo dell'Europa nella dimensione di economia globale e sociale di mercato. Un tema che noi affronteremo tra l'altro tra qualche tempo, ma non molto, perché insomma siamo in vista delle elezioni americane. Naturalmente stiamo lavorando su una serie di progetti e prodotti, uno dei quali riguarda appunto il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che di questi tempi viene misurato in sostanza dalla trattativa sul TTIP. E adesso la Commissione Europea apre alla flessibilità dei conti pubblici per paesi membri come l'Italia, e per bocca del commissario agli affari economici Pierre Moscovici si dice pronta a considerare spese impreviste, rifugiati, terremoti, insomma un'apertura al servizio. Flessibilità precise, limitate e chiaramente spiegate. In questo momento sanzionare sarebbe per l'Europa un fallimento e non farebbe che dare adito ai populismi. Il responsabile europeo agli affari economici Moscovici si apre all'utilizzo di nuovi margini di bilancio che nel caso dell'Italia si potrebbero tradurre in maggiori risorse non solo a copertura dell'emergenza terremoto e del nodo migranti, ma a sostegno del sistema bancario ancora incerto tra cessione delle quattro good bank, aumento di capitale di Montepaschi e smaltimento delle sofferenze. Ho fiducia che l'Italia, come sempre, se la caverà e risolverà i suoi problemi con il nostro aiuto, spiega Moscovici in un'intervista a margine dei lavori del Fondo Monetario a Washington. In Italia, aggiunge l'esponente della Commissione, c'è una minaccia populista. È per questo che sosteniamo gli sforzi di Renzi affinché sia un partner forte all'interno dell'Unione Europea. Quella di Moscovici è vista però come un'intromissione dalle opposizioni. Di comportamento scorretto parlano Forza Italia e 5 Stelle. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per ora è tutto con il nostro appuntamento europeo. Vi ricordo naturalmente stasera torneremo a parlare di Europa, domattina il nostro Euroreportage come di consueto. Noi ci risentiamo lunedì, e adesso naturalmente tutti convocati oggi con Giovanni Capuano. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.